Capitolo 8. La difesa dell'armonia. La realizzazione della doppia natura sottile è la vera guarigione assoluta e chi giunge a questo punto potrebbe certamente diventare, se il fare ciò fosse connaturale alla sua natura profonda, una guaritrice nel vero senso della parola. Infatti solo chi è veramente guarita può rendersi conto di come la vita, vissuta con tutti i poteri di sensibilità e conoscenza che derivano dalla trasformazione interiore avvenuta, abbia un valore molto relativo e un senso del tutto parziale, dato che le esperienze di chi la vive in modo normale sono paragonabili per costei a quelle di un malato, ovvero di un cieco o di un sordo dalla nascita, che per via della sua malformazione non può avere un'esperienza di vita totale. Essa, infatti, potrà avere l'esperienza oggettiva del fatto che, oltre alla dimensione materiale, che è l'unica dimensione reale per la maggioranza delle persone, esiste una dimensione non percepibile dai sensi corporei, ma che è altrettanto reale o forse più reale, dato che non è soggetta alle leggi di nascita e di morte, di ascesa e di declino, di quella che tutti conoscono. Ella potrà incontrare, vedere e forse dialogare con gli spiriti sottili che possono essere incontrati in quei momenti, come l'incanto profondo, o nel momento di passaggio dalla veglia al sonno, o ancora in certe situazioni di comunione naturale vissute nel profondo dei boschi, meno frequentati dagli uomini moderni, o in certi sogni vividi ed estremamente reali. Potrà verificare che certe leggende, certe fiabe e certi miti, che ai nostri giorni sono considerati come fantasie o racconti immaginari del tutto irreali, nascondono delle profonde verità e che certi personaggi composti unicamente da pura energia sottile, ai quali in tempi e luoghi diversi furono dati nomi differenti, effettivamente esistono anche se non hanno un corpo di carne e ossa. È proprio un grande limite quello di considerare esistente ciò che è fatto di materia e inesistente ciò che non è materializzato. Chi vede le cose in questo modo e di conseguenza agisce e opera e magari cerca di obbligare gli altri ad agire e operare solo secondo tale visione delle cose, non è solamente simile, come già ho detto, a un sordo o a un cieco, ma certe persone, per via della violenza, della prepotenza e del disprezzo che manifestano per chi cerca di essere e di comportarsi in modo coerente alla percezione, anche di una realtà sottile, potrebbero essere paragonate a dei sordi che cercano di bucare i timpani a chi è ancora in grado di sentire e di ledere la vista a chi è ancora in grado di vedere. Il rendersi conto che l'umanità moderna è composta da una miriade di persone cieche e sorde nel senso sopradetto è una delle consapevolezze a cui dovrà arrivare chi riesce a conoscere e a vivere la dimensione sottile. Tale consapevolezza non potrà non destare un senso di pietà e di tristezza, così come pietà e tristezza non possono non destare le azioni di chi lede, offende e sporca l'armonia naturale senza rendersi conto di ciò che fa per via di tali menomazioni. Ma come dice il proverbio, non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere e peggior sordo di chi non vuol sentire. E certamente, di conseguenza, del tutto inutili sarebbero i tentativi di correre a parlare alla gente per convincerla che sta sbagliando, come qualcuna magari all'inizio del processo di trasformazione interiore di cui si è parlato in precedenza potrebbe pensare di fare. Si dovrebbe piuttosto pensare che in questi tempi la cosa più importante è il cercare di salvare veramente se stessi, di imparare proprio bene a difendere la propria armonia e la propria capacità di incanto dai nemici e dalle insidie interne ed esterne, di cercare di uscire dalle tenebre assolute nelle quali si dibatte senza sapere di essere in tale stato l'umanità attuale. Solamente dopo aver realizzato e reso stabile e forte la guarigione assoluta, che come ho in precedenza scritto consiste essenzialmente nella conoscenza della propria anima profonda ed eventualmente della doppia natura sottile, conoscenza che può essere raggiunta solamente con l'aiuto, la guida e l'assistenza di una vera maestra, che a sua volta abbia veramente realizzato in sé la conoscenza, essendo in ciò stata a sua volta assistita da una maestra, si potrà pensare agli altri sperando di ottenere qualche successo. Infatti, chi sta per affogare non può salvare un'altra persona che a sua volta sta per affogare, ma solamente dopo aver raggiunto un luogo sicuro al di fuori delle acque potrà eventualmente tendere una mano a chi è in pericolo. Occorre però ribadire ancora una volta che in questo genere di cose non ci si salva da soli. e il pensare di poterlo fare è assai spesso o un pensiero dettato dalla presunzione e dall'orgoglio, ovvero un ingannare se stessi che dà come risultato il non concludere nulla. Del resto, il fatto di trovare una vera maestra che conosca il modo per arrivare alla guarigione assoluta, che non insegni fandonie né imbrogli né induca chi si avvicina a lei a una sudditanza e dipendenza psicologica, come assai spesso purtroppo succede, è in questi tempi un evento così raro che, come ho già detto, si deve ritenere che un incontro del genere non debba essere occasionale, ma fatale. Nel senso che deve essere scritto nel destino della persona dalle entità che stabiliscono i destini, ovvero ancora da prima della nascita. Quando un incontro tra maestra e allieva è veramente fatale, nel senso appena detto, in genere non ci sono molti problemi sia da parte della maestra sia da parte dell'allieva nell'intendere ciò che deve essere fatto. Soprattutto la maestra guaritrice opererà al fine di rendere sempre più libera colei che dovrà ricevere l'insegnamento, dato che la guarigione assoluta deve portare alla liberazione assoluta. A questo proposito, occorre ripetere che molti sedicenti maestri, soprattutto uomini, approfittano invece della sudditanza psicologica nella quale inducono i deboli e gli incapaci che si affidano a loro, per ottenere dei vantaggi economici o di genere ancora meno chiaro. Certamente coloro che fanno questa fine, alla quale ovviamente non corrisponde né alcuna liberazione né alcuna guarigione, ma al massimo delle false strutture mentali o delle fantasie che non portano da nessuna parte, non sono certamente fortunati e verrebbe da pensare che nessuna entità sottile li ha aiutati nella loro ricerca. Occorre forse anche dire che tali falsi maestri accettano ovviamente chiunque si presenti a loro, dato che per essi la cosa più importante è usare le persone, ovvero compiacersi della propria autorità e del proprio carisma, in un contesto di abnorme dilatazione del senso di potere del loro io. È anche purtroppo vero che in questi tempi ci sono sempre delle persone talmente incapaci di reggersi in piedi da sole, ovvero di dare un senso alla propria vita, senza appoggiarsi a chiunque abbia un minimo di carisma, che i fenomeni di questo genere continueranno ad esserci e forse diventeranno ancora più consistenti. Sia ben chiaro invece che le persone che sono destinate a conoscere ciò che sta al di là delle apparenze materiali e che di conseguenza posseggono un'anima profonda, particolarmente nobile, forte e armoniosa, non saranno mai, certamente, anche su un piano esteriore e storico, degli incapaci, delle incapaci, delle fallite o delle imbecilli, né da tali persone mai saranno attirate. Dato che ovviamente la nobiltà, la potenza e la sensibilità della loro anima naturale si rifletterà, dato che esso ne è un riflesso nel quale si manifestano esteriormente le sue caratteristiche, anche nel loro io esterno. E pertanto esse sentiranno disgusto o disagio se per caso incontrassero individui di questo tipo e ne starebbero ben lontane. Con ciò voglio anche dire che tutte le mie allieve o pazienti, che dir si voglia, destinate alla guarigione assoluta, sono sempre state delle persone che, anche su un piano esterno, erano caratterizzate da un fascino, da un'intelligenza, da una capacità di scelta e di discriminazione e da una sensibilità decisamente notevoli. Ciò anche perché l'opera di trasformazione e di guarigione assoluta è purtroppo talmente ardua e selettiva in questi tempi che non avrebbe senso il fatto di proporla a chi non possiede evidentemente le caratteristiche necessarie e sufficienti per poter riuscire in tale intento, caratteristiche che si manifestano sul piano esteriore con delle qualità decisamente al di sopra della media, che sono appunto rivelatrici di un'anima profonda, dalle nobili e forti caratteristiche assolutamente necessarie per sperare di poter affrontare appunto il difficile cammino verso la guarigione assoluta. Un'altra cosa che caratterizza assai spesso quelle persone e quei gruppi che affermano di cercare dimensioni magiche e trascendenti, mentre in realtà si raccontano delle frottole e in pratica ottengono anche per via della noia, della repressione della spontaneità e della naturalezza che caratterizza tali gruppi, il risultato di separare sempre di più la loro parte storica esterna dalla loro parte più profonda e reale, è, oltre alla dipendenza psicologica nei confronti del sedicente maestro, una mancanza di quella gioia e allegria reale che si manifesta nell'individuo quando inizia il ricongiungimento tra la parte profonda e la parte esterna dell'individuo stesso. Chi invece trova la vera via che porta alla conoscenza delle invisibili armonie naturali, troverà una dimensione di gioia e di libertà assoluta, dato che la gioia e la libertà sono il normale modo di essere delle armonie naturali. E certamente, quanto più tale dimensione sarà stata realizzata su un piano interiore, tanto più la persona sarà indipendente nei confronti della stessa maestra che l'avrà accompagnata, ovviamente senza nulla pretendere in cambio. Fino a quel punto in cui da nulla e da nessuno di storico e materiale si deve più dipendere. Ma prima di arrivare a tale punto, che come ho già detto molte volte deve essere raggiunto in gran segreto, è possibile che certe forze oscure, che dominano i tempi attuali, cerchino di impedire il conseguimento di questo risultato. Esso potrebbe essere infatti probabilmente paragonato, dal punto di vista di tali occulti e invisibili dominatori dei nostri tempi, alla fuga di qualche pecora ribelle dal branco di animali destinati al macello, all'agire e al cercare al di fuori di ciò che è stato stabilito si debba fare e cercare, all'anelito verso una dimensione nella quale tali oscuri dominatori non possono entrare, né più alcun potere possono esercitare nei confronti di chi tale dimensione ha raggiunto. Gli ostacoli che tali forze possono tentare di mettere sul cammino di chi cerca l'assoluta libertà possono essere interni o esterni alla persona. Dubbi e contrapposizioni dell'io esterno, stati di umore cattivo, malattie e accadimenti sfavorevoli nella vita di tutti i giorni. È molto probabile che il motivo per il quale alcune persone trovino più ostacoli di questo tipo di altre sia in relazione o alla fortuna dell'anima profonda o alle caratteristiche di tale anima. Nel senso che, ove tale anima fosse caratterizzata da un modo d'essere particolarmente debole e indifeso, sarebbe forse più esposta di altre a tali tipi di attacchi, a meno che la guaritrice non eserciti su di lei un'azione protettiva e rinforzante, insegnandole a difendere la sua armonia e la sua naturalità. Anche il fatto di mettersi troppo in evidenza, magari cercando di operare tentativi di guarigione assoluta su altre persone senza aver del tutto risolto i propri problemi, o il parlare anche per entusiasmo di ciò che si sta facendo con persone con le quali non si dovrebbe parlare, può essere un motivo per il quale potrebbero avvenire tali sgradevoli attacchi provenienti da forze negative esterne all'individuo. Per quanto riguarda invece gli attacchi dall'io interno, ovvero i dubbi e le contrapposizioni dell'io storico, essi sono spesso dovuti al fatto che sono ancora presenti nella persona delle strutture mentali artificiali, ovvero delle idee, delle concezioni di vita, di morale, delle abitudini che sono connaturate al mondo di oggi, ma direttamente o indirettamente in opposizione a ciò che si dovrebbe fare. È l'anima profonda della persona, se è abbastanza forte da poterlo fare, che dovrebbe spazzarli via quando decide. E a tale scopo deve essere stata adeguatamente richiamata dalla maestra guaritrice di riprendere possesso della persona, annichilendo e mettendo a tacere tutto ciò che è incompatibile con la naturalità e con la legge e la conoscenza naturale. Non serve quindi a molto parlare e spiegare alla persona ciò che potrebbe essere giusto e ciò che potrebbe essere errato, dato che quando si parla o si ragiona, lo si fa di solito con l'io esterno razionale. A meno di usare la simbologia e l'allegoria delle fiabe o l'incanto di certe poesie, con le quali è probabilmente possibile andare più a fondo di quanto si riesca a fare con un normale discorso. Si potrebbe anche pensare di convincere tale io della sua limitatezza e della sua precarietà di fronte all'eterno naturale. Ma il discutere e il cercare di convincere in genere servono ben a poco se non si opera anche e principalmente più nel profondo, e anzi si rischia di cadere, così operando, in una noiosa e sterile schermaglia dialettica, in un parlare fine a se stesso, simile a quello che tanto piace ai filosofi dei nostri tempi, sempre pronti a parlare troppo, che di certo non è gradito dall'anima naturale profonda. Se la realtà sottile non riesce, dopo essere stata stimolata e richiamata nei vari modi possibili, a riprendere il posto centrale e dominante che dovrebbe avere, perché è troppo debole per riuscire in questo intento, di conseguenza la persona potrebbe perdersi e in certi casi, dopo aver provato e riprovato ad avviarla sulla strada della guarigione assoluta, non si può fare altro che lasciarla al suo destino. Per quanto riguarda poi gli stati di umore cattivo, le tristezze, le tensioni, le depressioni, i nervosismi e via dicendo, si deve dire che chi è dotato di sensibilità sottile e di conseguenza conosce anche l'aspetto invisibile delle cose, intende come le cause di tali stati d'animo siano delle entità oscure, che quasi sempre hanno caratteristiche orribili e disgustose e siano paragonabili ai peggiori mostri e fantasmi della letteratura e del cinema dell'orrore. Infatti, mentre per le persone normali l'essere di cattivo umore, nervoso o depresso è un fatto del tutto regolare, e anzi, a tal proposito, la letteratura, la poesia e diverse concezioni filosofiche presentano assai spesso delle figure di eroi e di eroine in preda a tali stati, che poi le masse più o meno consapevolmente imitano o eleggono a personaggio ideale, per chi vede o ha iniziato a vedere al di là delle apparenze, tali esempi devono essere considerati del tutto negativi e certamente da non imitare in nessun modo. Il fatto è che in questo contesto non si dovrebbe dire che una persona è triste, nervosa o aggressiva, ma che essa è preda di un'entità di tristezza, di un'entità di nervosismo o di una entità aggressiva. Tali entità, che posseggono un loro modo d'essere e di manifestarsi paragonabile ai sintomi delle normali malattie, che spesso peraltro da tali entità derivano o a volte sono anch'esse manifestazioni di qualche oscuro modo d'essere, posseggono a tutti gli effetti le persone, che diventano loro succubi, cercando di lederne o di annichilirne l'armonia e a volte addirittura sottraggono l'energia vitale di chi è divenuto una loro preda. La possessione di una persona può annichilire le caratteristiche personali fino al punto che si potrebbe dire che essa diviene una incarnazione dell'oscura passionalità che la possiede. Si tratta quindi di imparare a difendere la propria gioia e la propria armonia, nelle quali piuttosto conviene identificarsi fino a diventarne una manifestazione contro tali oscure energie che sono sempre più diffuse e hanno sempre più potere sulle persone, che in tale accadimento, ovvero nel fatto di essere da esse possedute, non trovano nulla di strano. La difesa è ovviamente più agevole quando ci si rende ben conto di con chi e con che cosa si ha a che fare, e soprattutto quando ci si rende conto che si ha a che fare con un'energia che proviene dall'esterno e cerca di prendere possesso dell'individuo. Non si dovrà quindi dire, ad esempio, sto diventando triste, ma la tristezza sta cercando di entrare in me. Il cercare di chiamare ancora di più dentro di sé i buoni sentimenti e i buoni umori, che posseggono ovviamente delle valenze del tutto opposte, è indubbiamente la prima cosa da fare in questi casi. Certamente la maestra guaritrice, che per poter esercitare l'opera di guarigione assoluta deve possedere dentro di sé sia le armonie dolci che le armonie forti, al fine di poter trasmettere la sua dolcezza o la sua forza a colei che ne avesse bisogno, saprà come intervenire per allontanare tali entità oscure. In certi casi, con tali oscure energie può essere tentato un dialogo, o allo scopo di addolcirle e renderle del tutto innocue, ovvero allo scopo di allontanarle, anche con una certa positiva violenza e una certa forza, dalla persona che esse cercano di sottomettere. Inoltre, si possono usare le tecniche dell'analogia e la forza dei simboli o dei colori, e anche i canti e la musica, ripetendo lungamente queste tecniche fino a ottenere il risultato desiderato. A tale proposito, si può ricordare che la guaritrice, più che usare in questo e in altri contesti il ragionamento logico, deve sentire o magari essere consigliata dalle entità sottili che le sono amiche, o ancora intuire negli accadimenti di tutti i giorni i particolari segni che le permettano di risolvere una certa situazione o un certo problema. Proprio per via della sua sensibilità estrema, ella saprà inoltre se, ad esempio, un certo sassolino levigato e colorato che da lei si fa trovare sulla riva del mare o lungo il corso di un torrente è un semplice sassolino o possiede un certo potere positivo che potrà essere utile in una futura occasione. Similmente, intuirà invece che un certo vestito, ovvero un certo colore o addirittura un certo taglio di capelli, è adatto o è inadatto a una sua allieva attaccata da qualche energia oscura, dato che a volte il trasformarsi completamente anche nell'aspetto esterno può risolvere o sminuire problemi di questo tipo. È opportuno sottolineare che vi sono umori cattivi, come la collera, l'aggressività o certi nervosismi, che hanno caratteristiche maschili e che vanno di conseguenza addolciti e mitigati, di solito con situazioni e proiezioni di armonie femminili, ovvero con armonie dolci e con l'incanto naturale. Analogamente, i cattivi umori classificabili come femminili, come la tristezza, la melanconia e certe forme di depressione, più facilmente sono rimossi da energie forti di tipo maschile, come quelle che possono essere ispirate dalla contemplazione di una possente cascata o di un mare tempestoso, o dal rimanere lungamente in vetta di un'alta montagna dalla quale si domina l'orizzonte. Altre volte invece, e la guaritrice per via della sua estrema sensibilità e anche perché tali tipi di interventi difficilmente possono essere codificati, saprà suggerire all'occorrenza le tecniche e i rimedi migliori, con le forze dolci si potranno guarire i cattivi umori femminili e con quelle forti quelle maschili, mentre altre volte ancora si dovrà ricorrere all'intervento combinato delle due energie. Certamente è comunque auspicabile che l'allieva diventi al più presto abbastanza forte da imparare a difendere la propria armonia da sola. Quanto detto a proposito dell'umore e degli stati d'animo è anche valido per le malattie corporee, che spesso sono l'aspetto più fisico della stessa negatività, che quando agisce solamente sullo stato dell'umore, provoca i negativi stati d'animo dei quali si è detto. Infatti, a volte, la stessa oscura energia che può provocare uno stato d'ansia o di tensione potrebbe ad esempio causare un affaticamento del cuore, un bruciore di stomaco, dei disturbi intestinali o dei disturbi al fegato, ovvero la prolungata presenza dentro a una persona di una cattiva energia potrebbe dare luogo anche a malattie fisiche. È ovvio che l'intervento di guarigione e di difesa dell'armonia deve avvenire il più presto possibile, e cioè prima che il cattivo umore abbia messo delle radici tali da diventare parte integrante della persona, e possibilmente prima che la malattia abbia preso piede in un qualche organo o luogo dell'organismo in modo stabile. Infatti, a parte certi casi nei quali la parte sottile della malattia dà, con estrema rapidità, i sintomi di una malattia fisica nel corpo della persona in cui è entrata, spesso l'invisibile entità di disarmonia e di sofferenza, che è la causa occulta dei fenomeni morbosi fisici, permane a lungo vicino o dentro la persona, quasi cercando un punto debole nel quale manifestarsi. Quanto più si acuirà la sensibilità sottile, tanto più la persona che si è avviata sulla strada della guarigione assoluta diventerà di ciò consapevole e potrà di conseguenza prendere le opportune misure per evitare che ciò avvenga. In questi casi conviene di solito concentrarsi sulle energie vivificanti e salutari che l'anima profonda fa girare nel corpo fisico. E se si riesce a concentrare l'azione di tali energie nel punto del corpo in cui la malattia cerca di manifestarsi. Ovviamente la guaritrice potrà ella stessa operare sul corpo della sua allieva interventi di questo genere, sommando all'energia vitale della potenziale ammalata la sua energia, ovvero stimolando in modo opportuno una maggiore circolazione di energia vivificante, facendo risalire tale energia dai luoghi profondi, ovvero dall'umore radicale, ove essa è di norma massimamente concentrata. Anche per curare le malattie fisiche, la guaritrice userà le sue energie, le tecniche di analogia, nonché tutto ciò che sentirà di dover usare a seconda delle situazioni. Potrà anche, ovviamente, usare le erbe medicinali, dopo averle rese ancora più potenti ed efficaci, cogliendole nel momento più adatto e con tutte quelle cerimonie che hanno lo scopo di chiamare in esse la forza guaritrice della natura e di acquietare e ringraziare lo spirito sottile della pianta che è stata raccolta. In particolare, riferendosi alle due energie di cui abbiamo in precedenza parlato, ovvero del maschile e della femminilità interiori, è evidente che chi veramente le possiede e ha anche appreso ad usarle su un piano terapeutico può, di fronte a una malattia, dare e togliere, stimolare e calmare, fortificare e indebolire a seconda dei casi e delle circostanze. Il potere stimolante e fortificante che proviene dalla pura energia maschile acquisita con l'incanto interiore, che dovrebbe caratterizzare in particolare la parte destra della persona, sarà principalmente utile, come ho già detto, contro le malattie o i sintomi di malattie che potrebbero essere definiti femminili, essendo caratterizzati da delle manifestazioni che potrebbero essere assimilate all'acqua impura, o al generare nel malato debolezza, languore, deliquio, dolori non violenti ma persistenti, disfunzioni dell'apparato femminile. Per contro, il potere riducente e calmante che proviene dall'armonia femminile, che dovrebbe caratterizzare in particolare la parte sinistra della persona, potrà essere efficace contro le malattie o i sintomi di malattia che potrebbero essere considerate maschili e nelle quali si può intuire una manifestazione di fuoco impuro e violento, come dolore lancinante, arrossamento, febbre elevata, secchezza e bruciore. In certe malattie, quando vi sono sintomi sia maschili sia femminili, vanno usate ambedue le energie di cui dispone nel proprio profondo la guaritrice. In pratica, l'armonia femminile toglie vigore al fuoco impuro, ovvero calma, purifica e lava, mentre l'armonia maschile asciuga le umidità malsane e annichilisce i cattivi umori. Si potrebbe pensare che dalla mano destra di chi ha acquisito i due poteri esca il fuoco e dalla mano sinistra l'acqua, ovvero che da ambedue le mani escano fuoco o acqua a seconda del tipo di energia evocata internamente e agente in quel momento. L'energia dell'acqua sarà ancora di più rinforzata se verranno tracciati o danzati intorno alla malattia dei cerchi antiorari, che avranno appunto il significato di togliere o di lavare via. Mentre l'energia del fuoco sarà favorita nel suo manifestarsi dai cerchi orari che avranno il senso di aumentare l'energia e dare forza. Moltissime altre cose si potrebbero scrivere a questo proposito, come l'influenza e le caratteristiche operative delle fasi lunari, delle stagioni, dei segni zodiacali, del giorno e della notte, dei giorni della settimana, delle stesse ore del giorno e via dicendo. Ma lo scrivere di tali dettagli sarebbe troppo nozionistico. E poi certe tecniche devono essere apprese dal vivo insegnamento della maestra guaritrice, dato che il fatto di apprenderle da un documento scritto in realtà insegna ben poco, se non nulla. Inoltre, sia ben chiaro che conoscere tali argomenti e tali tecniche, senza possedere il magico potere dell'amore naturale nelle sue due forme, ovvero nella forma di amore maschile e di amore femminile, a nulla serve, dato che chi tentasse di operare e di guarire senza questa buona ed eterna energia sarebbe paragonabile a qualcuno che cerca di avviare una automobile che è senza benzina o ad accendere una lampadina elettrica senza elettricità.